sopravvivo. Per spiegare a tutti che sono come me, come te. Negli occhi non mi guardano, chissà che cosa penso. Sono come te, la gente non mi guarda. Se gli pongo la mano, lui si scansa e scappa dritto nella sua stanza. Continuo il mio cammino, il tempo si è fermato e io mi sento un po' cretina. Ma cosa sto facendo con l'ombrello nel castello? Se qui non piove, non tira vento. Il mio nome è Rino Smash, vincerò questo match. Tipo in stop, questa bella caga pochi non taca la maca lì. Sulle sim, su questa caga pochi, sempre stop. Questa bella caga pochi non taca la maca lì. Sulle sim, su questa caga pochi. Il mondo è strano, ma se li tendo la mia mano, non è cattivo se lo prendo per il lato positivo. Il mondo è strano, ma se li tendo la mia mano, cambierà di giorno in giorno. Anch'io son come voi ma non lo capirete mai. Avrei bisogno di un sorriso, non di un calcio dritto in viso. C'è tanta gente che ti prende per il culo e con gli amici poi ti risponde vaffanculo. Da tanto tempo c'è chi ha scoperto come me che il mondo è proprio strano e non si sa perché. Io sogno un mondo bello che più bello non ce n'è. Poi infine vedo questo e ne deduco che un nuovo millennio sarà così. Comunicare via internet fino a cani gatti. Il nuovo millennio sarà così. Comunicare via internet fino a cani gatti. Il mondo è strano, ma se li tendo la mia mano, non è cattivo se lo prendo per il lato positivo. Il mondo è strano, ma se li tendo la mia mano, mi gira intorno e cambierà di giorno in giorno. Il mondo è strano, ma se li tendo la mia mano,